Steve a mis au point différents réservoirs. E ci sono novità anche sul Heute Journal mit Klaus-Peter Siegler. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Buona Pasqua a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori dal vostro Riccardo Chiaberge. Questa è una puntata speciale in cui vi riproponiamo alcune delle interviste più interessanti che sono andate in onda alla finestra sul cortile dall'inizio dell'anno. E il primo tema, anche in carattere con la festa della Pasqua e quindi con le tematiche religiose, è proprio la crisi delle vocazioni sacerdotali tra i giovani cattolici, un grido d'allarme che arriva dagli Stati Uniti ma che si estende anche al resto del mondo. Come mai in un mondo occidentale che sente sempre di più il richiamo del sacro, in cui il discorso pubblico è sempre più fitto di richiami religiosi, in cui la stessa figura del pontefice che campeggia su tutti i media ogni giorno, come mai c'è invece questa difficoltà di reclutare nuovi sacerdoti? Su questo tema è intervenuta alla nostra finestra sul cortile lo scorso 10 ottobre Emma Fattorini, storica del cristianesimo. Ascoltiamola. Io penso che il problema da cui partire non è il celibato sarebbe una scorciatoia, non è per quello che c'è la crisi delle vocazioni, le ragioni sono molto più profonde, molto più di fondo e attengono esattamente a quello scivolamento di valori che non riguarda solamente la crisi delle vocazioni. In quel caso però è evidente un rapporto di grande esaurimento della Chiesa col mondo. Quindi è un discorso proprio di fondo, cioè giustamente certo. Avete preso come esempio la crisi delle vocazioni, ma questo rimanda come la Chiesa, che cosa può dire, che cosa fa oggi, come interpella il mondo, la modernità dunque. E il problema anche lì però non è, come spesso si crede, quello di un adeguamento, cioè il problema non è che la Chiesa è poco adeguata, è poco moderna, è poco segue poco questi modelli, e cioè il problema non è di troppa repressione, di troppa ristrettezza. Il problema semmai è quasi il contrario, cioè di un eccessivo adeguamento, superficialità, quasi un'omologazione. Cioè il sacerdote oggi, quando dice lasciare un segno nella società, ecco, lui sente, anche il giovane, sente che fare il prete, fare il sacerdote poi, significa fare a livelli un po' più miserabili, un po' più miseri quello che fanno i laici. Cioè non è attirato da una scelta profonda, radicale, vera, di tipo spirituale, che poi implicherà anche delle rinunce, e poi vedremo perché e per come, se è giusto tenerle, quando e perché. Effettivamente il celibato è una scelta che la Chiesa fa successivamente, non è una verità di fede, non è un dogma, non, no? È una tradizione. Quindi poi vediamo l'opportunità o meno, ma non è, questo viene dopo. Il problema è capire qual è l'appeal vero. Perché? Cioè è questa sorta di secolarizzazione totale, assoluta, no? E questo orizzonte di materialismo pervasivo di tutto. Ecco, però mi pare che lei però abbia sottolineato un aspetto importante, cioè che proprio il modello del sacerdote che si è un po', come dire, stinto, no? Si è un po'... ha perso quell'attrattiva, quelle caratteristiche, se vogliamo, certo, è profondamente ascetiche, no? Di ascetiche, certo. Che potevano attrarre in passato. No, infatti la vocazione riguarda molto proprio il sacerdozio, perché se noi vediamo invece le scelte monastiche o le scelte di clausura, per esempio tra le donne, cioè scelte più dure, più rigide, che però richiedono una scelta spirituale più profonda, più interiore, più coinvolgente, ecco, quelle sono meno in crisi, sono meno in crisi di quelle sacerdotali, perché il sacerdote è quello che ha il ponte col mondo, quello vero, insomma, diciamo, quello più quotidiano, quello più prosaico. Sì, quindi ecco, è quello veramente in crisi. Credo che uno degli aspetti, delle proposte più interessanti che emergono da questo articolo di Malloy è l'idea della sfida intellettuale, cioè il fatto che la ricerca di Dio attraverso i testi sacri è una vera e propria scienza che impegna l'intelligenza di chi la studia. Non è semplicemente un racconto di favole, ma praticamente impegna quasi come la chimica. amica, no? Per esempio dice il capire che Gesù è nato a Nazareth e non a Betlemme, o che ci sono stati nella storia biblica altre figure nate da vergini. È un'importante sfida per capire la differenza tra metafora e verità letterale, insomma il problema dell'esegesi, no? Questo, al di là del merito che riguarda appunto la ricerca storica e la fede, insomma, nella figura della identità storica della figura di Cristo, questo discorso che fa lei rimanda al carisma, alla vocazione specifica dei gesuiti, certo, che è stata quella di misurarsi con livelli alti della ricerca scientifica. Adesso parla di questo campo, ma questo vale anche per la ricerca, cioè, per dire, biologica, medica, storica, certo, filosofica, perché era il compito dei gesuiti quello di essere, diciamo, la punta alta del confronto, dello scontro e della sfida con il sapere laico. Ma anche quel punto lì è andato in crisi, infatti i gesuiti conoscono una profonda crisi del loro approccio, della loro vocazione, anche loro, perché effettivamente quello che poi va in crisi è la specificità del messaggio di fede. Certo. E si rischia un'omologazione, si rischia che ci sono bravissimi scienziati, bravissimi teologi, ma che non hanno un rapporto vero personale con la loro fede. Ecco. Potrebbero essere benissimo degli intellettuali bravi, laici. Quindi questo è il punto sì. È ritornare a una dimensione interiore spirituale, e questa è la vera questione. E per restare sui temi della spiritualità, parliamo di dialogo interreligioso, un dialogo che lo stesso pontefice ha giudicato difficile, se non impossibile, ma c'è chi ancora si ostina a praticarlo, per esempio padre Luciano Mazzocchi, fondatore della comunità La Stella del Mattino, che riunisce cattolici e buddisti zen. Ascoltiamolo. Dunque, vivendo in Giappone 19 anni, sempre a contatto con il popolo giapponese, prima di essere richiamato per altri impegni in Italia, ho avuto la fortuna di trascorrere un periodo con padre Osida Sigeru, praticante fervente dello Zen. Sul campo di battaglia in Russia incontrò dei cristiani, ne rimase colpito e, rientrato in Giappone, chiese il battesimo, diventò frate domenicano, grande studioso di Tommaso d'Aquino, e riconobbe nel cammino Zen la stessa direzione della croce di Cristo. Sulla croce morire perdonando tutti, dice, questo è lo Zen dello Zen. Quindi decise, io, praticante dello Zen, chiedo il battesimo cristiano. Mi impressionò tanto, grazie ai 19 anni già trascorsi in Giappone, non dimenticai mai quelle parole. E rientrato in Italia, dopo aver svolto degli impegni di formazione dei missionari, ho chiesto di aprire un luogo dove si pratica lo Zazen, la meditazione Zen. Ecco, è nata così. Attualmente io gestisco soprattutto un centro ad Esio, dove la pratica Vangelo e Zen ha come punto di partenza il Vangelo, e a Lodi, sotto la guida di Giso Forzani, carissimo amico, si pratica praticamente la stessa via, però partendo dallo Zen. Ecco, ma questa descrizione che c'è nel libro di Nonomura, ecco, spero che non corrisponda alle vostre abitudini nella vostra comunità, perché sembra Full Metal Jacket, insomma, sembra un incubo, no? Questa una caserma quasi. Premetterò che anch'io ho passato un breve periodo al Eheiji, nella provincia di Fukui, in Giappone, e ovviamente accogliendo l'orario, l'impostazione e tutto quanto. E l'Eheiji, devo dire anche che è il tempio madre della espressione Zen Soto, curata dal grande maestro Zen Eihei Dogen. Quindi è un fulcro, direi, proprio dell'esperienza Zen, questo tempio che è tra l'altro proclamato bene dell'umanità dall'UNESCO e merita veramente una visita. Dal punto di vista artistico, una visita. Ecco, allora, lo Zen giapponese si è rivestito di forme caratteristiche del Giappone del tempo medioevale. Sì, quando lo Zen è entrato in Giappone, il buddismo è entrato già nel 600, 500-600 dopo Cristo, però in forme più istituzionalizzate, più al servizio della corte imperiale e dell'assetto governativo del paese, come se fosse una guida spirituale dei governanti. Poi nel 1200-1300, proprio mentre in Europa c'era il risveglio del Medioevo di Francesco d'Assisi, di Domenico, ecco, in Giappone avviene la popolarizzazione del buddismo. Questi grandi maestri, plasmano il messaggio buddista a livello popolare, e subirono anche persecuzioni da parte invece delle forme buddiste ormai standardizzate, ortodosse, diciamo, nel legame col potere. Ecco, Dogen ha voluto insegnare che tutto il messaggio buddista trascorre, entra nella vita dell'uomo attraverso soprattutto la meditazione, il cosiddetto zazen, questo sedere crociando le gambe, certo, su un cuscino che è un po' come la montagna dell'esistenza, composti, occhi aperti, abbandonando tutti i pensieri, ma senza cacciarli, perché il cacciarli è già avere un proprio punto di partenza per cui si cacciano i pensieri, invece si mollano, si lasciano, ecco, si diventa fluidi nella grande corrente, diremmo noi, cosmica, dell'essere, diciamo, dell'essere, sì. Quindi senza afferrare nulla, ma semplicemente lasciarsi scorrere nella grande corrente, quindi il proprio sé si scioglie nel sé universale. Questo è il messaggio di Dogen. Ora, questo messaggio poi si è rivestito di forme caratteristiche culturali del periodo giapponese, quindi un po' militaresche, un po' punitive, diciamo. E credo, senz'altro è la convinzione di Giso Forzani, e anche così accompagnandolo dalla parte cristiana anche mia, che lo Zen va liberato dalla incrostazione giapponese e riportato alla sua essenza, che è che quando l'uomo tace e si mette nella posizione dignitosa dell'ascolto senza nessuna prevenzione nella mente, in quel momento comunica con il fondo dell'essere, il quale fondo dell'essere poi non è una cosa, ma è il vuoto, è la duttilità, è l'essere senza imporsi, come un'onda del mare che si erge e rientra nel mare. Questo. Quindi, ecco, in questo spazio incontra il divino, insomma, visto da un punto di vista invece cristiano, no? Sì, Ferdinand Martini nel suo stupendo libro Conversazione. Fiora Gerusalemme, sì. Gerusalemme dice che in un'isola davanti alla Cina dialogava con un monaco dello Zen, sì, certo. Parlava del nulla, io parlavo di Dio, ma accorgevo che dicevamo la stessa cosa. Io credo questo, che ogni qualvolta noi dicendo Dio lo cosifichiamo in qualche cosa, noi perdiamo Dio. Invece quando dicendo Dio ci sciogliamo in qualche cosa verso cui noi non siamo presi dall'ansia di cosificarlo in qualcosa da afferrare, ma veramente allora ci si scioglie, allora sì, comunichiamo con Dio. Quindi la parola nulla, tra l'altro così cara a Giovanni della Croce, che pure non conosceva nulla dello Zen, così cara al Cusano, un cardinale della Chiesa Cattolica, certo, 1400, così cara a Silesio, del grande pure convertito dal protestantesimo al cattolicesimo, un grande mistico del 1600, senza la parola nulla non avrebbero mai espresso la loro esperienza cristica alla profondità mistica. La finestra sul cortile. Riprendiamo la nostra puntata pasquale riproponendovi altre due interessanti interviste andate in onda nei mesi scorsi alla Finestra sul Cortile. E passiamo dalla religione al mondo dell'arte, in particolare dell'arte contemporanea. Sì, perché le opere d'arte contemporanea, le installazioni e gli altri oggetti e creature della fantasia degli artisti contemporanei vanno soggette anch'esse a deterioramento, e dato che sono costruite con materiali molto particolari, questo pone dei delicati problemi ai restauratori. Giancarlo Maraniello, il direttore del Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Bologna, il Mambo, ci ha spiegato i problemi che incontrano i restauratori. Ascoltiamolo. Il problema della conservazione riguarda proprio la natura dell'opera d'arte contemporanea, e nell'ultimo secolo, ma io penso almeno da Duchamp in avanti, il problema non è la materialità dell'opera, ma proprio l'investimento concettuale, il gesto, perché l'arte contemporanea sostanzialmente ha cambiato statuto all'opera, nel senso che molto spesso, anzi l'opera coincide anche con l'operazione, spesso anche deludendo le aspettative del pubblico. Sì, perché magari una performance, magari no? Esattamente, perché qui i riferimenti tratti dall'articolo ancora ci fanno pensare appunto alla deperibilità dei materiali. In alcuni casi addirittura la negazione della materialità dell'opera, la pura trasfigurazione attraverso il segno, il gesto, il valore che non è un valore appunto materiale. Certo. Allora cosa accade? Che certamente il problema della conservazione non riguarda soltanto il restauro e quindi la conservazione degli elementi materiali, ma anche la conservazione dello spirito, dell'iniziativa, e ovviamente ogni conservazione si accompagna anche a una sorta di rivisitazione del valore e del senso dell'opera. Pensiamo appunto a che cosa significa oggi poter conservare della performance, che cosa? La rappresentazione, la documentazione, nel momento in cui c'è un gesto che anzi trasgredisce la presenza fisica dell'opera, noi abbiamo di fronte un problema appunto di conservazione di memoria. Molti artisti, devo dire, hanno ragionato anche nella progettazione delle opere su come conservare i loro gesti, i loro prodotti, le loro idee. Ecco, tra gli artisti le opere del Mambo, c'è stato qualche caso che lei ricorda particolarmente significativo di problemi di restauro? Beh, come no, noi anzi stiamo facendo adesso proprio un grande lavoro di recupero, ad esempio tutto quello che è accaduto appunto negli anni tra il 76, il 77 e il 78, dove la Galleria d'Arte Moderna di Bologna è stata sede di importantissime azioni di artisti da Hermann Nietzsche, Marina Abramovic, anzi si tenevano proprio a Bologna le settimane della performance. È evidente che oggi un problema di conservazione è anche un problema di interpretazione. Devo dire che le ultimissime generazioni sono quelle che forse già lavorano con una maggior consapevolezza che un giorno questi problemi si verificheranno. Forse anche il clima ideologico con cui si è negata e sottratta all'arte la possibilità di essere commercializzabile negli anni 70, quindi anche accompagnati anche a delle ideologie dominanti dell'epoca, hanno fatto sì che ci si preoccupasse magari poco della conservazione di questi gesti. Oggi assistiamo a una generazione di artisti che magari si è formata con le idee di questi artisti e che già prevede in qualche modo il problema della propria conservazione. Ed ecco che l'arte si accompagna spesso a certificazioni, addirittura proprio a indicazioni d'uso e di modalità d'uso per il futuro. E allora ecco che un artista, purtroppo prematuramente scomparso, come Félix González Torres, che realizzava degli omaggi alle persone attraverso dei rituali, non dei monumenti, quindi non so, il peso di un mare di caramelle che corrisponde al peso della persona omaggiata, che il pubblico è invitato a consumare, quindi una sorta di eucaristia laica, a prendere parte, partecipare al corpo di questa persona. Sì, Félix González Torres, ci resta nell'estate di Félix González Torres, quindi tutte le indicazioni sull'utilizzo delle sue opere, il modo in cui riattivare queste opere. Ecco, abbiamo parlato di cioccolatini, adesso ci sono anche le caramelle, insomma, quindi, quelle non sono invase da coleotteri. Però. Sì, ma in alcuni casi la cosa interessante è che Félix González Torres dava la possibilità o di sostituire le caramelle mancanti con nuove caramelle, oppure in alcuni casi di lasciare appunto il consumarsi dello spazio fisico dell'opera, quindi addirittura si trattava di conservare paradossalmente il vuoto, cioè l'opera è data proprio nella sua svanizione, nella sua in realtà attivazione da parte del gesto del pubblico che realizza l'opera e la fa diventare quasi spirituale, immateriale. Restiamo in campo artistico, ma andiamo nel mondo dell'archeologia, dell'arte antica. C'è un immenso museo sotto il mare. Il Mediterraneo nasconde immensi tesori che spesso vengono depredati dai cacciatori subacquei, e questo pone evidentemente il problema della loro tutela, che non è semplice. In Grecia, per esempio, hanno allentato la legislazione che regolamenta

Il meglio della finestra sul cortile si chiude qui. Un ringraziamento in redazione a Vittoria Mussini e Daniele Casagrande e in regia a Filippo Aureggi. La finestra sul cortile torna regolarmente sabato prossimo. Ancora buona Pasqua dal vostro Riccardo Chiaberge.